Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci. Buona giornata, gentili ascoltatrici e gentili ascoltatori. Ben trovati, questo è Nessun Luogo Lontano, penultima puntata di questa stagione. Vi porgo i saluti anche da parte di Eleonora Aragona, Antonio Talia e Silvia Malnati, che hanno scritto e confezionato con me anche questa puntata. Valeria Bernardi le darà musica e ritmo. Vi ricordo anche che potete commentare o porre domande o richieste al 349-238-6666, vale sia per gli sms che per i whatsapp. Cercateci su Twitter, Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz, e infine su Facebook, Nessun Luogo Lontano, trattino Radio 24. Allora, oggi lunghe pagine dedicate alle città, alle metropoli, alle grosse metropoli, alle loro problematiche, su tutte Caracas, Venezuela. Andiamo lì. En Venezuela, la oposición venezolana calienta los motores para una marcha masiva a la que han convocado para este 1 de septiembre. Partiamo da Caracas, perché le ultimissime ci raccontano di questa marcia prevista per oggi. L'opposizione scende in piazza, la toma di Caracas, la presa di Caracas, che dovrebbe fare vacillare il presidente Maduro, il quale, ci dicono le agenzie, nel frattempo sta rispondendo con grande durezza a chi, giornalisti, reporter, vorrebbe raccontare questa giornata che si pronuncia estremamente importante. Secondo quanto riporta l'ANSA, vari corrispondenti stranieri sarebbero stati respinti, rimbalzati all'arrivo all'aeroporto di Caracas, tra questi l'inviato delle Monde, quelli di Al Jazeera, nonché alcuni giornalisti americani. L'idea che circola tra i colleghi è che il presidente Maduro non voglia assolutamente dare spazio e visibilità a questa imponente marcia dell'opposizione, che è prevista appunto per quest'oggi. Caracas, che è agli onori delle cronache quest'oggi per ragioni prettamente politiche, è spesso in cima a varie classifiche, tra quelle ad esempio c'è quella di Numbeo, il database più grande al mondo, che stila ogni anno classifiche che raccontano quali sono le città più pericolose al mondo. Numbeo in particolare incrocia dati forniti dalle varie istituzioni, dai vari stati, con dati forniti dagli utenti. Poi ci interrogheremo anche sulla validità di questa classifica. Fatto sta che Caracas, secondo molte classifiche, è la città più pericolosa al mondo. Buongiorno e benvenuta a Nessun Luogo Lontano a Giulio Vita, che è direttore della Quarimba, che vuol dire rivoluzione. Adesso organizza anche un festival di cortometraggi ad Amantea, in Calabria. È un ex giornalista, attualmente anche filmmaker, e viveva proprio in Venezuela. Giulio, buongiorno e benvenuto a Nessun Luogo Lontano. Ciao, buongiorno, grazie per l'invito. Grazie a te per il tempo che ci dedichi. Giulio, perché hai lasciato il Venezuela, in particolare Caracas? Beh, soprattutto per l'alto tasso di delinquenza che c'era, perché l'ho vissuto anche di prima persona. Tu facevi il giornalista, hai vissuto anche esperienze... Studiavo giornalismo, sì. E riportavo un po' le cose tra studenti, soprattutto nel 2007, quando abbiamo fatto una marcia molto simile a questa, sì. Che è l'unico anno dove abbiamo vinto le elezioni a Chavez. Sì. E quanto la pericolosità di Caracas, che è raccontata dalle cronache, è raccontata anche da queste liste, no? Da queste classifiche, quanto è percepita da voi che ci vivete? Quanto gli abitanti venezuelani in realtà si sentono impediti nella vita quotidiana dalla pericolosità? Allora, il problema è che, come in tutto, gli esseri umani ci adattiamo, no? Noi non la percepiamo nello stesso modo che la può percepire qualcuno che viene da fuori. Per noi è normale essere sequestrati, è normale che ci uccidano un amico per delinquenza, è una cosa che è parte della nostra quotidianità. Quella è la cosa più drammatica della situazione, che per noi già è un fattore normale, non è un'anomalia. Giulio Vita, direttore della Quarimba, che è questo festival di cortometraggi che organizzi Adamantea in Calabria, un passato da studente, anche attivista, scendevi in piazza a Caracas, studiavi giornalismo, poi esperienze anche vissute sulla tua pelle ti hanno fatto, come dire, colmare quel discrimine tra sicurezza percepita e insicurezza, anzi, percepita e insicurezza reale. Adesso invece sei in Italia, ovviamente una situazione totalmente diversa. Guardando quello che cade oggi, che accadrà oggi a Caracas, questa grande mobilitazione di piazza, che cosa ne pensi? So che hai amici, hai contatti, hai fonti tuttora. C'è anche mia madre lì ancora. Oggi è un momento, è un giorno molto interessante, perché a differenza di la narrativa che vuole vendere il governo, ancora fissato con questo colpo di Stato che c'è stato nel 2002, lui continua a dire che noi vogliamo la violenza. Però non è vero, non c'è stato nessun atto di violenza. Nel frattempo, invece, come dicevate, respinge tutti i corresponsali, anche la CNN non lo fanno entrare. Però l'altra differenza, a differenza del 2007, è che oggigiorno il 95% della popolazione hanno smartphone. Allora sarà molto più difficile certe strategie di disinformazione che hanno fatto durante tutti questi anni. L'altra differenza è che questa marcia, l'unica cosa che vuole è che il governo accetti una cosa che Chavez aveva accettato molte volte quando aveva la palla dal suo campo, che è accettare un referendum che è dentro la nostra Costituzione. Sì. Però il problema è che ora le statistiche, come abbiamo visto a dicembre l'Assemblea Nazionale, le statistiche mettono il governo in una bruttissima luce. Allora adesso che lui può perdere, decide di non permetterlo e ha mandato minacce dirette in catena nazionale ai lavoratori pubblici, che se votano li butteranno, che se, insomma, cose che Chavez non l'aveva mai fatto, non aveva sinceramente andato fino a quel livello, era molto più leggera la situazione, almeno non era così diretta, no? Così, adesso invece, come è a rischio il governo, diciamo che per quello è interessante, la difficoltà sarà che l'opposizione riesca, che non lo so se lo riuscirà, a mettere insieme un movimento unito e a non rispondere con violenza agli atti di violenza che il governo, come ha fatto in passato, vorrà fare e come ha già minacciato proprio adesso. Grazie mille. Giulio Vita, ex giornalista, adesso filmmaker, regista, organizzatore, lo ricordo, la Guarimba, cioè rivoluzione, forse quella che l'opposizione sta mettendo in scena in queste ore a Caracas e di cui vi daremo conto ragionevolmente la puntata di domani, l'ultima di Nessun Luogo Lontano. Grazie mille Giulio Vita per essere stato con noi, buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi, ciao ciao. This is an emergency. This is an emergency. Homicides in Chicago, Illinois have surpassed the death toll of American special forces in Iraq. Hey, it's all the meetings. Welcome to Chi-Raq. Chi-Raq, where we at, my city. E adesso vi faccio fare un piccolo passaggio dal Venezuela, da Caracas, la città più pericolosa al mondo secondo alcune classifiche, tra cui quella di Numbeo, a Chicago, perché la recente cronaca ci consegna una feroce faida tra gang e con bilanci piuttosto importanti. I rapporti della polizia parlano di 459 omicidi compiuti nel 2016. Durante il solo weekend del 4 luglio sono state uccise 60 persone. In un articolo di Al Jazeera, Arthur Lurigo, professore di criminologia e psicologia all'Università di Loyola, ha affermato che la violenza a Chicago è un problema più grave che in altre città per via del razzismo istituzionalizzato. E i frammenti sonori, il racconto che avete sentito è quello di Chi-Raq, il gioco di parole è quasi immediatamente evidente, Chicago come l'Iraq, lì dove il numero di morti va a superare quello di una città in guerra ormai da tanto, troppo tempo. Spike Lee l'ha raccontato in un film che è uscito proprio l'anno scorso, in realtà è un ibrido perché è a metà via tra fiction, tra musical, si basa su episodi reali o verosimili e si basa sulla commedia di Aristofane del 411 a.C. Lisistrata, in cui le mogli dei combattenti atenesi e spartani inscenavano un sciopero del sesso per far smettere una guerra, quella guerra tra bande sulle strade di Chicago, che appunto Spike Lee ha raccontato in questo film. E se questa è la Chicago moderna, quella di Spike Lee, pur con un retaggio antico, poi c'è una Chicago che forse in tanti di voi ricorderanno. Sì, non è che ho detto che molti di voi la ricorderanno perché siete tutti vecchietti all'ascolto, anche i più giovani ricorderanno perché esiste una narrativa, una narrazione di quella Chicago degli anni 20 e gli anni 30, forse chi non ha visto un film su Al Capone. Erano quegli anni molto violenti, gli anni del proibizionismo, gli anni in cui il crimine organizzato controllava il contrabbando, la produzione di alcol, perché era appunto vietato. Erano gli anni di Al Capone, di George Moran e John Dillinger. Quanto quella Chicago ha dato frutti benefici, quanto la Chicago di oggi è legata a quella, in buona sostanza quanto la storia violenta va a plasmare un presente violento. E se volete, è un po' il cuore della domanda di quest'oggi, qui a Nessun Luogo Lontano: cosa rende una città o un'area metropolitana violenta e insicura, e cosa la rende sicura? Come percepiamo la pericolosità di una città? Quanto appunto la storia criminale di una città getta poi un'ombra anche sul suo presente? È la prima domanda che farei al professor Stefano Luconi, insegna storia degli Stati Uniti d'America all'Università di Padova, a cui do il benvenuto e ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano, professor Luconi. Buongiorno, grazie per l'invito. Sì, la storia di Chicago un po' influenza gli avvenimenti recenti, però in realtà non c'è poi questa grande continuità. Come veniva osservato prima, Chicago è una città fortemente segregata. I dati che ha diffuso anche lo Chicago Tribune lo scorso fine settimana, quella secondo cui una persona verrebbe assassinata ogni 12 ore e a una persona verrebbe sparato ogni 2 minuti circa, sono dati medi. Il grosso della violenza, il grosso del crimine, quella guerra tra gang che veniva ricordata prima, è concentrata in due distretti che sono South Side e West Side, che guarda caso sono anche i distretti dove è maggiormente concentrata la popolazione africana, afroamericana e la popolazione ispanica. Sono zone poverissime dove la criminalità diviene quasi l'unico strumento per guadagnarsi in qualche modo da vivere, dove la popolazione è un po' disposta a tutto, e questo spiega anche questo tasso di criminalità così elevata e così concentrata in questi due distretti particolari della città. Sì. Professore, in parte mi ha già risposto, però quanto le città sono schiave della loro storia, anche più recente? Perché insomma, se è vero che vi sono delle caratteristiche, no, su Chicago che impediscono una maggiore sicurezza, poi c'è anche un'inazione della politica, o forse risposte sbagliate da parte della politica? Ma su Chicago direi che ci sono anche una serie di motivi contingenti. È stato trovato che circa il 60% delle armi non registrate, della non registrazione delle armi da fuoco che favorisce gli omicidi, provengono dall'Indiana, stato dove fino a poche settimane fa una legge consentiva di non registrare i passaggi di proprietà delle armi da fuoco quando queste erano vendute da privati, cioè non da commercianti che facevano i mercanti d'armi di professione, a altri privati cittadini. Quindi la non tracciabilità è un, diciamo così, una ragione contingente, una ragione non strutturale, che ha contribuito poi a alimentare il potenziale di fuoco di queste gang che si combattono per il controllo del territorio. Poi ci sono altri motivi, diciamo così, sempre di carattere contingente. Spesso il portavoce della polizia cita il cosiddetto effetto McDonald, che è stato l'afroamericano ucciso nonostante fosse sostanzialmente innocuo alla fine del 2014, che ha portato a un'inchiesta sul funzionamento dell'operato del Dipartimento di Polizia, ha portato alle dimissioni il capo della polizia, e questo secondo le forze dell'ordine avrebbe portato anche a controlli meno aggressivi, e quindi questo avrebbe un po' indebolito la prevenzione del crimine sul territorio. Però in generale va tenuto conto anche di un altro fatto, sì, ovvero sia che negli Stati Uniti esiste una mal interpretata lettura del secondo emendamento della Costituzione, che rende il possesso e la detenzione delle armi un diritto dell'individuo. E questo certo favorisce ulteriormente la diffusione non tanto della criminalità, ma della presenza di armi da fuoco, e quindi del loro ricorso. Ripeto, è una malinterpretata lettura del secondo emendamento, anche se è stata fatta propria dalla Corte Suprema nel 2008, perché di solito di questo emendamento si ricorda soltanto la parte finale, cioè il diritto a detenere e a portare armi non può essere violato. In realtà c'è una precisazione, c'è una premessa, c'è un preambolo che dice: poiché una milizia ben organizzata è necessaria per la sicurezza di uno Stato libero, allora il diritto di detenere e portare le armi non può essere violato. Quindi, secondo alcuni giuristi, non si tratta di un diritto individuale, si tratta di un diritto collettivo degli Stati a mantenere una milizia armata. Questa non è la versione fatta proprio dalla Corte Suprema, e quindi la possibilità di portare armi favorisce il loro utilizzo. Grazie mille, professor Stefano Luconi, lo ricordo, insegna storia degli Stati Uniti d'America all'Università di Padova. Buona giornata e buon lavoro, professore. Grazie a voi. Police sirens every day, people dying every day, mama's crying every day, father's trying every day, trying to get my head straight. It's the city of Chirac, man, get your bed made. See death around the corner, boy, I dodge him like I own. I don't talk if I don't know. E questo è sempre il racconto, stavolta sono le note messo in musica di Spike Lee, della sua Chirac, di questa Chicago come l'Iraq. Un paragone per certe vesti azzardato, ma se poi andiamo a guardare i numeri, gli omicidi, quelli ci sono stati. Però già il professor Luconi ci aiutava a comprendere che, attenzione, non sono su tutta Chicago, ma in alcune zone determinate, e come cause ci sono alcuni fattori molto molto precisi. Chi studia queste cose è, fra gli altri, Fiamma Terenghi, criminologa ricercatrice presso iCrime, che è un gruppo di ricerca dell'Università di Trento fondato e guidato da Andrea Di Nicola. Fiamma Terenghi, buongiorno, benvenuta a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie per questo invito. Allora, grazie a lei, Terenghi, per essere con noi. La prima domanda è metodologica, visto che lei è criminologa, insomma, sfruttiamo anche le sue competenze, perché i dati raccontano molto, ma se letti male raccontano niente. Allora, noi abbiamo citato questa classifica, no, di Numbeo, che va a incrociare dati forniti dagli stati, dalle città, ma anche dati forniti dagli utenti. Che cosa significa e come lavora una classifica di questo genere, quella che, lo ripeto, pone Caracas alla vetta delle città più pericolose del mondo? Sì, allora sicuramente si può dire che le classifiche sono certamente utili a capire quali città siano più violente o meno violente e, servono anche per chi si deve muovere, si deve spostare. Però nel caso specifico di Numbeo, questa è una classifica basata principalmente su dati degli utenti. Quindi diciamo che il dato utente è un dato a suo modo anche parziale. Quindi il dato non solo bisogna essere in grado di leggerlo, ma bisogna anche capire di che natura è e avere bene in mente anche alcuni limiti che ogni tipologia di dato pone ovviamente poi all'analisi, sì, e ad avere delle risposte o comunque in questo caso una classifica. Sicuramente è innovativo l'utilizzo dei dati degli utenti, molto innovativo, perché spesso anche nelle nostre analisi sono dati che vengono ancora poco utilizzati, invece sono una parte fondamentale dell'analisi e anche per capire se un luogo è sicuro o sì. meno, una città è sicura o meno. Sicuramente anche il fatto di averli in tempo reale, cosa molto più difficile con dati più ufficiali provenienti da enti governativi e altre istituzioni dei territori, delle città. È anche molto utile unire più variabili, più dati, più fonti dati, perché ovviamente a parte i dati sulla criminalità ci sono anche altri indicatori molto più legati alla qualità della vita di cui questa classifica prende in considerazione. Sì. Però quello che vorrei sottolineare è che non possiamo sulla base solo di questa classifica determinare se poi una città è violenta o non violenta a parità di altre con massima certezza. Questo perché? Perché il dato utente è un dato che proviene soprattutto da una percezione di sicurezza o insicurezza o di una percezione di rischio della propria sicurezza sì. e soprattutto questo avviene in termini di fenomeni criminali ovviamente. Ecco, e qui apriamo un capitolo secondo me molto molto interessante, perché la sicurezza percepita è una cosa, la sicurezza reale è un'altra. Leggevo poco tempo fa un dato che era particolarmente interessante, era un confronto se non erro tra Milano e Stoccolma. Se a uno di noi viene chiesto qual è la città più violenta, forse o meno sicura, mettiamola così, magari uno viene a pensare, beh, Milano, perché c'è questa immagine, c'è questa percezione del nord Europa estremamente ordinato, estremamente sicuro. Poi uno va a vedere i tassi di omicidi e Stoccolma è 4 volte quelli di Milano. Allora qua credo sia immediatamente evidente come esistono 2 realtà diverse, appunto una quella percepita e una quella vera, perdonatemi il gioco di parole. Beh, e quello, su questo punto i criminologi insistono parecchio. Noi abbiamo aperto la trasmissione con Giulio Vita, che ha vissuto e cresciuto a Caracas, e diceva, beh, sai, la percezione per noi è normale essere rapiti, essere sequestrati, avere un amico ucciso. L'assuefazione alla violenza è anche un elemento importante, no? Nella percezione della sicurezza o dell'insicurezza. Fiamma Terenghi. Esattamente questo, nel senso che questa distinzione è fondamentale, anche perché spesso quello che appunto è stato appena detto rispetto a Milano e Stoccolma è quello che noi rileviamo anche spesso dalle nostre analisi, nelle nostre ricerche, cioè uno scarto tra quella che è la sicurezza percepita soggettiva e quella che invece è la sicurezza oggettiva di un territorio, ovvero quello che accade veramente all'interno di un territorio, di una città, di un quartiere, sia in termini di fenomeni, di reati, ma anche di altre tipologie di fenomeni che possono essere di degrado urbano, di presenza anche di soggetti che comunque possono mettere un senso di insicurezza, che quindi sì. e mi riferisco magari, non so, alla presenza di tossicodipendenti, di prostitute, quindi insomma diciamo che spesso anche noi rileviamo che dove a volte c'è un livello alto di insicurezza percepita, a questo non corrisponde un livello altrettanto alto di insicurezza, diciamo, oggettiva. Sì. E quindi, questo, Terenghi, mi chiedo scusa, la interrompo, è molto interessante, perché questo può diventare una leva politica formidabile, e a volte insomma anche i politici nostrani si sono appoggiati alla percezione della sicurezza, ricordo certi slogan, città più sicure, quando in realtà poi uno va a vedere i numeri e senza negare che avvengono crimini, episodi di criminalità, però poi tutta questa emergenza francamente non si vedeva, ma gli italiani secondo me sono maestri dell'emergenza. Chicago come caso di scuola, dottoressa Terenghi, che cosa ci insegna? A parte il fatto che non è Chicago tutta insicura, record di omicidi ad agosto, ma quei 2 quartieri, no? Della parte sud, quindi già questo è un primo tassello. Che altre lezioni il caso di Chicago ci può insegnare per non cadere in quella trappola della errata percezione e quindi eventuale strumentalizzazione politica? Allora, Chicago sicuramente è un ottimo esempio e direi che tornando ancora velocissimamente al senso di insicurezza, proprio la discrepanza è dovuta al fatto che il senso di insicurezza percepito dipende anche da altre variabili che vanno al di là della criminalità, che significa anche l'età, anche il genere, variabili anche ambientali, come dicevo, la presenza di degrado o meno, ma anche appunto dalla copertura e dalla rappresentazione mediatica. E qui arriviamo a Chicago, nel momento in cui, come giustamente il professor Luconi ha detto, questi tassi di omicidio sono, questi elevati tassi di omicidio sono, diciamo, riguardano 2 quartieri specifici, quelli che sono stati nominati, quindi 2 aree della città, l'area sud e l'area ovest. Questo vuol dire che la criminalità ha una distribuzione spazio-temporale, quindi solitamente non riguarda un'intera città, in questo caso parliamo di omicidi, ma anche altre tipologie di reato più o meno violente, appunto segue una concentrazione spazio-temporale. Questo spiega perché determinati quartieri hanno tassi più elevati, ma perché sono quartieri che hanno determinate caratteristiche sociodemografiche, hanno anche bassi livelli di occupazione, hanno livelli bassi di istruzione. Nel caso di questi due quartieri specifici di Chicago c'è anche una forte presenza di gang, e quindi diciamo anche di attività illecite che queste gang gestiscono, con un controllo anche del territorio spesso violento, soprattutto se pensiamo al traffico, allo smercio comunque di droga, eccetera. Presenza anche di armi, ovviamente, perché come è stato anche giustamente detto, c'è una presenza anche di armi illegali, ed è un dato che risulta anche a noi abbastanza diffusa. E quindi parliamo di realtà, sintetizzando, a forte marginalità sociale, con un elevato livello di conflittualità sociale, che spesso viene gestita attraverso la violenza, perché è una modalità, tra virgolette, di cuneo normale, ma torniamo ancora agli inizi, quando appunto la violenza diventava qualcosa di, come dire, un aspetto, diciamo, della realtà quotidiana. Dopodiché la concentrazione riguarda anche il tempo, significa che c'è un picco ad agosto, questo ne parlavano i giornali, significa che i mesi estivi, cioè significa che ovviamente abbiamo una concentrazione in determinati mesi, giorni della settimana e fasce orarie. Sì. Nel caso specifico di questi quartieri abbiamo ovviamente, se pensiamo che molti di questi omicidi sono a carico di autori che sono giovani, molto giovani come fascia d'età. Se pensiamo che nei mesi estivi ci sono delle realtà che sono chiuse, pensiamo alle scuole, pensiamo ai centri di aggregazione, questi soggetti ovviamente stanno molto più spesso in strada, sono meno, diciamo, impegnati in altre attività. Non solo il fatto che accadono di notte, perché lì è stato rilevato che sono le ore serali notturne quelle più a rischio, ma anche qui perché c'è molto meno controllo informale, ovvero controllo della comunità. Certo. Molta certo, meno gente per certo entrare. Fiamma Tenenghi, quindi se fosse velocissima, perché c'è l'informazione finanziaria. Concludendo molto velocemente, sì, il rischio mediatico è proprio quello di poi far passare la sensazione che sia Chicago insicura tout court. Ecco, certo. Invece parliamo di due quartieri. Molto, molto precisi e anche intervalli temporali precisi. Fiamma Tenenghi, stia con noi, l'informazione finanziaria, poi di nuovo, nessun luogo, sarà lontano. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Nessun luogo. Nessun luogo è lontano. Città che uccidono è il tema di quest'oggi, sintetizzando un po' brutalmente l'analisi che stiamo facendo. Cosa rende una città, un'area metropolitana violenta e insicura e la fa balzare ai primi posti delle classifiche, come Caracas, per esempio, che ha occupato la prima pagina di Nessun Luogo? Ma non solo, Johannesburg, per esempio, che è al quarto posto, Durban, che è al quinto, ma poi in Sudafrica ci andremo. Cosa invece rende sicura una città e come percepiamo la pericolosità di un ambiente urbano e ancora quanto la storia criminale, il passato, getta un'ombra lunga sul presente. Adesso vi raccontiamo un'altra storia che, se volete, è sempre una storia criminale, ma che è anche una storia di redenzione. È la storia di Sefton Harry, che ha 26 anni, ha iniziato a spacciare che ne aveva 8, ha iniziato a drogarsi a 11 anni e a 14 anni è finito per la prima volta in carcere. Adesso Nessun Luogo vi porta a Londra, sentite il suo racconto. Well, I ran away from home when I was young. Sono scappato di casa quando ero molto piccolo e nel mio quartiere scoppiavano dei casini di continuo. Uomini più grandi di me mi hanno insegnato a spacciare droga all'età di 8 anni. Immaginati, un bambino di 8 anni che spaccia. Molti come me sono cresciuti in questo ambiente e quando sei abituato a fare qualcosa per così tanto tempo è difficile uscirne. Insomma, vivevo passando da una casa all'altra, dormendo sui divani o dove capitava, ed era un contesto estremamente violento. Ho visto una donna a cui è stata tagliata la vagina con un tagliarino. Ho visto un uomo picchiato a sangue con un batticarne e tutte queste cose terribili sono diventate la mia normalità quando ero ancora piccolo. È così che si diventa insensibili alla violenza ed è così che diventa facile accoltellare qualcuno, perché qualsiasi legame emotivo viene neutralizzato, annichilito. Nel corso degli anni sono stato in prigione 7 volte, mi hanno sparato, mi hanno accoltellato, sono stato picchiato e sono stato investito da un'auto. Inoltre ho iniziato a fare uso di droghe a 11-12 anni. La maggior parte dei ragazzi nelle strade del mio quartiere oggi si droga e la ragione è che avvertono un dolore che nessuno così giovane è capace di esprimere. Si fa uso di droga per fuggire da tutto questo. A 14 anni sono finito in prigione per la prima volta e se finora hai vissuto una vita come quella che ti ho descritto, la verità è che la prigione ti distrugge. In prigione diventi la belva che cercavi di allontanare da te. Sai, quando all'inizio la gente mi diceva «sei una persona cattiva», io ho sempre risposto «non sono cattivo, sono una persona ferita». Ma dopo la terza volta che sono finito in prigione, te lo giuro, sono diventato davvero un uomo cattivo, perché in quel periodo ho consentito a tutte le cose terribili che mi erano successe di prendere il controllo su di me. Questa è la voce di Sefton Harry, questa era la sua educazione sentimentale criminale. Sefton Harry è stato ed è uno dei protagonisti di un documentario che si intitola Gangland, che è in uscita proprio in queste ore sulla BBC in Gran Bretagna e che racconta le bande criminali della capitale di Londra, una Londra inedita che noi forse non sospettiamo nemmeno, feroce, come avete sentito dalla voce di Sefton Harry. E al regista è venuta un'idea incredibile, perché per anni ha cercato di avvicinare queste gang londinesi. Ovviamente, come potete immaginare, i criminali non volevano essere ripresi e lui si è inventato questa cosa: lasciava delle GoPro, delle piccole telecamerine in un luogo prestabilito. I membri di questa gang andavano a prendere le telecamerine, se le piazzavano addosso e per una settimana registravano tutto quello che accadeva. A fine settimana lasciavano il materiale, il video, e il nostro regista andava e sbigottito apriva gli occhi su questa Londra dai sapori e dai colori estremamente oscuri. E questo è Gangland, scusate, di Paul Blake, questa operazione di narrazione su una città che uccide, su una città che forse nella nostra percezione ha risolto certi problemi, ma che ancora soffre di criminalità e di crimini violenti. Tra le altre cose, Sefton Harry, che è questo protagonista che ha accettato di parlarci, di raccontare la sua esperienza, oggi guida un'organizzazione che si chiama Gangline e che aiuta i giovani coinvolti nelle gang di strada a poi rifarsi una vita. Come se ne esce? Come si esce da questo abisso? Sentite Sefton Harry cosa ci ha detto. Io ero uno conosciuto in tutti quei quartieri, ero affiliato a tutte le gang della zona sud-est di Londra. Quando entravo in un bar, un locale, la gente aveva paura di me e mi rispettavano nella maniera in cui rispetti una specie di celebrità. A quel punto avevo raggiunto uno stile di vita brillante, nei club entravo sempre dall'ingresso VIP, mi consentivano di portare armi, conducevo la vita che conduce un gangster di medio-alto livello nel Regno Unito. Ti senti risucchiato, non vuoi uscirne, anche se senti questo qualcosa che ti consuma dentro. Ma tutto ciò ha un costo. Ti guardi alle spalle ogni momento, non riesci mai a dormire davvero, perché sai che la violenza che hai praticato ti ritornerà indietro. Sei sempre sul campo di battaglia, come se fossi nell'esercito, ma la gente ti guarda e pensa: «Ehi, quello fa una gran vita, vive come se non gli importasse di nulla». Però, dentro di me, questa cosa mi stava divorando e volevo uscirne. Molte persone hanno provato ad aiutarmi, specie delle donne, ma questo per un periodo mi ha creato solo altri problemi. Finché qualcuno non mi ha convertito, ho scoperto la fede, perché mi sono detto che solo un potere soprannaturale avrebbe potuto salvarmi. E dal racconto di Paul Blake, anzi di Sefton Harry ha recitato per modo di dire, ha colto la telecamera su di sé in questo progetto di Paul Blake, lo ricordo, in uscita sulla BBC Oggi e Domani, un progetto incredibile di storytelling, di racconto di fenomeni criminali urbani, che è un po' il cuore della puntata di Nessun Luogo di quest'oggi. Le abbiamo forse un po' bruscamente, ferocemente intitolata Città che uccidono, cosa rende una città violenta e insicura? Cosa la rende invece più sicura? Vi faccio fare un doppio salto mortale, vi porto in America Latina di nuovo, però andiamo in Messico con Fabrizio Lorusso, professore universitario, giornalista freelance. Chi ci segue ha imparato a conoscerlo, con lui abbiamo affrontato la musica in prima linea in Arco Corridos, e fra l'altro è la musica che ci sta accompagnando adesso. Buongiorno Lorusso, ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano. Ciao, buongiorno a tutti. Allora, siccome sei anche giornalista, ci diamo del tu, così ecco, spieghiamo questa confidenza che ci permettiamo. Allora, noi stiamo citando varie fonti, varie statistiche che vengono stilate da think tank, da gruppi di ricerca, malauguratamente le città latine dell'America Latina e molte città messicane sono sempre ai primi posti tra appunto le città più violente. Più violente vuol dire crimini efferati, crimini violenti, omicidi, eccetera. Caracas è al primo posto, però poi c'è San Pedro Sula, San Salvador, poi c'è Acapulco in Messico. Non c'è però tra le prime 10, 20, 30, addirittura credo 50 Ciudad Juarez, e questo forse è un po' un trend inedito per un paese, il Messico, che è molto difficile, che sa essere molto violento. Fabrizio Lorusso. Sì, in realtà c'è... appunto ci sono alcune città che escono dalla classifica, se possiamo chiamarla così, un po' brutalmente, altre che vi rientrano e che appunto vedono aumentare i tassi di omicidio. Acapulco ha superato i 100 omicidi per 100.000 abitanti da 3-4 anni, è la città tra le più violente dell'America Latina e la più violenta del Messico. E vediamo come spesso questi ingressi proprio nella classifica delle città più violente dipendono dalla guerra alle droghe, e in qualche modo c'è una violenza strutturale, ma c'è anche una violenza ulteriore determinata proprio dalla guerra per ottenere la plaza, quindi sì, per ottenere quel mercato di distribuzione della droga e anche per controllare i porti. Ricordiamo infatti che Acapulco è una megalopoli, è una città enorme, da quasi 3 milioni di abitanti, ma è anche un porto, quindi uno snodo per tutte le sostanze chimiche che arrivano dall'Asia, per esempio per i laboratori delle metanfetamine messicani, cui è un luogo appunto molto combattuto in questo senso. E la Juarez è rimasta in questi ultimi anni una città più pacificata, perché appunto la guerra tra diversi cartelli, Jalisco Nueva Generación, Sinaloa, anche gli Steta, si è spostata su altri fronti fondamentalmente. Sì, Fabrizio Lorusso, lo ricordo, giornalista freelance a Città del Messico, tra Città del Messico e altre città appunto nel paese, docente all'Università UNAM, adesso però credo tu ti sia già spostato, vero? In un nuovo... Sì, nel centro nord, a León. In un nuovo Ateneo a León, autore del libro Narcoguerra, cronache dal Messico dei cartelli della droga, e questo credo che sia l'ultimo, perdonami se non sono preciso in questo senso, lo sono, meno male. Allora, tra pochissimo abbiamo un'informazione sul traffico, ma tu rimani con noi Fabrizio, perché stiamo identificando i fattori che rendono una città più violenta di altre, che le fanno balzare ai primi posti di questa benefica classifica mondiale, e tu ci hai aiutato a comprendere caratteristiche precipue della realtà che racconti e che vivi e cui insegni. Stai con noi, poi di nuovo Nessun Luogo Sarà Lontano. Nessun luogo è lontano. Un día en la favela con pocas alternativas, la onda es pesado luchando por mi vida. Ben ritrovati, questa è l'ultima pagina di Nessun Luogo Lontano. Ci siamo spostati in Messico, più in generale siamo tornati in America Latina per capire quali sono i fattori che rendono città mortali. Quando le città uccidono? Beh, quando c'è una crescita incontrollata, per esempio, quando c'è una forte disuguaglianza fra strati sociali della popolazione, quando ci sono tensioni etniche, quando c'è una forte disponibilità di armi. Nel mondo varie città soffrono, vivono dinamiche diverse, ma alcuni punti fermi riusciamo a posizionarli. E poi c'è tutto il capitolo ampissimo della percezione che abbiamo. A volte percepiamo una città come estremamente insicura, ma poi andiamo a vedere i dati, non lo è. La colpa è di chi? Beh, a volte di personale indole, altre volte il racconto dei media, che certamente non aiuta. Fabrizio Lorusso, giornalista freelance, docente universitario, autore del libro Narcoguerra, cronache dal Messico dei cartelli della droga, super sintetico se riesci, siamo quasi in chiusura. Andiamo alla percezione dei messicani in generale, dei latini. come vengono percepite queste città che realmente sono insicure? Come i messicani vivono la loro quotidianità? Sì, anche qui c'è stato un cambiamento netto, almeno a livello di discorso e poi anche mediatico, diciamo, no? Seguito a ruota dai mass media rispetto alla presidenza, al periodo precedente. Felipe Calderón fino al 2012 ha mantenuto un discorso bellicista di guerra alle droghe, per cui ecco, la paura era proprio il discorso dominante. Negli ultimi 3-4 anni ci si è spostati verso un discorso di sviluppo, di riforme strutturali, anche se però la realtà sostanzialmente non è cambiata e ormai negli ultimi 2 anni il tasso di omicidi si sta avvicinando pericolosamente a quello del 2011, che era stato il picco della narcoguerra degli anni precedenti. Sì. Per cui il discorso mediatico è cambiato, sicuramente c'è una forte influenza delle prime pagine dei giornali, no, di internet, dei vari media messicani. Ora la percezione è, diciamo, di una relativa tranquillità, ma c'è stato un grande risveglio, diciamo così, dopo il caso di Ayotzinapa, dei 43 studenti sì. desaparecidos. Sì, di cui parlammo, fra l'altro, no? Insomma, in una vecchia puntata in Nessun Luogo, sì, certo. Sì. Quindi di nuovo ha fatto tornare, no, appunto alla ribalta e alle cronache un problema, oltre a quello degli omicidi, quello delle desaparizioni, certo. Quindi delle sparizioni forzate. Certo. Grazie mille Fabrizio Lorusso per questa tua fotografia e analisi. Buona giornata e buon lavoro. Grazie, buona giornata. Continuiamo in questa analisi di quelle che sono le città più problematiche, più cruciali tra realtà e percezione. Vi porto, indovinate un po', in Sudafrica. And my next step must take me into the lion's den. The number comprised 3 gangs, the 26s, the 27s, and the 28s. La voce che avete sentito è il rumore di sbarre, di cancelli che si chiudevano. Era Ross Kemp che entrava in una prigione a Durban in Sudafrica a raccontare le Numbers Gang, secondo la narrazione giornalistica, le bande più pericolose appunto del Sudafrica. Si chiamano Numbers Gang perché sono 3 gruppi con numeri identificativi 26, 27 e 28. Ross Kemp, forse qualcuno di voi lo conosce, è un attore, giornalista britannico abituato a infilarsi in situazioni non esattamente comode, come non è esattamente comoda e seducente la realtà metropolitana sudafricana. In particolare alcune città soffrono più di altre, su tutte Durban, dicevo, Johannesburg per esempio, ma anche città del capo. Che città sono? Se c'è un filo rosso che le lega. Noi abbiamo raggiunto Patrick Bond, che è professore di economia politica all'università di Witwatersrand, e abbiamo chiesto perché le città sudafricane sono tra le prime nelle classifiche sulla pericolosità delle città nel mondo. Sentite. La risposta più immediata è che in tutte le città del Sudafrica c'è una forte disparità. Questa estrema ineguaglianza è legata agli anni della segregazione razziale e alle politiche di apartheid. Queste differenze però poi sono andate peggiorando con la fine dell'apartheid, soprattutto a causa delle nuove politiche neoliberali. Queste politiche hanno migliorato le condizioni economiche delle industrie e di alcune persone, per lo più bianche. Poi questi gruppi si sono creati un loro ghetto ed è scattata una corsa alle armi per difendersi dai crimini comuni che hanno invaso le aree pubbliche delle città. Anche in presenza di telecamere di sorveglianza, vaste aree della città, per la maggior parte abitate dalla classe media e bassa, sono diventate meno sicure a causa della disperazione di molte persone. Le gang criminali sono emerse come prodotto di questo capitalismo veramente esasperato che ha portato anche la xenofobia. Abbiamo infatti assistito a un incremento di violenza xenofoba contro gli immigrati poveri in distretti in cui ci sono nuove battaglie per gli spazi di vendita al dettaglio. Gli immigrati di solito vendono a prezzi inferiori perché acquistano in blocco. Abbiamo visto alcuni di questi episodi di violenza nel 2015. In quel periodo ci sono stati molti casi di morti atroci, così come subito dopo la Coppa del Mondo nel 2010. Nel 2008 le morti sono state 65 e 300.000 persone sono state dislocate. Possiamo dire che in alcune aree specifiche i traffici di droga sono alla base dell'incremento della violenza, specialmente a Durban, nel quartiere Wentworth, dove sono avvenuti molti omicidi. L'ultimo elemento critico è la violenza politica tra fazioni che cercano di controllare il territorio. E nelle elezioni che si sono tenute lo scorso mese, il 3 agosto, c'è stata una grande dimostrazione di questa violenza, anche con la fine del partito dominante. Le componenti quindi sono diverse, ma alla base di tutto ci sono la profonda disuguaglianza e una crescita economica nulla che porta le persone verso una disperazione ancora più forte. Era la voce del professor Patrick Bond, insegna economia politica all'Università di Witwatersrand in Sudafrica, che ci ha elencato altri fattori che rendono una città più insicura, dal punto di vista reale, non percepito, certamente. Fatemi tornare, poverina, se no sembra che ci siamo dimenticati di lei. Fiamma Terenga, criminologa, ricercatrice presso il gruppo iCrime all'Università di Trento, fondato da Andrea Di Nicola. Però Terenghi, ci tenevo che lei sentisse anche gli altri contributi, perché adesso è il momento di tirare un pochettino le somme di questa lunga analisi di Nessun Luogo è Lontano. Abbiamo capito cosa rende una città più violenta di altre, quali sono i fattori determinanti. Voi di iCrime, questo gruppo di ricerca di Trento, avete sviluppato un software che fondamentalmente predice i reati appoggiandosi a un riferimento cinematografico. È quasi come il film Minority Report, dove Tom Cruise andava ad arrestare le persone prima che esse che andassero a commettere i reati. Quanto in là si può spingere il software di predizione dei reati? Cosa si riesce a prevedere? Super sintetica. Sì, allora, il software è un software che aggrega più flussi dati diversi, perché come abbiamo detto l'analisi della sicurezza in un territorio deve essere fatta a partire da dati molto diversi e non solo quelli sulla criminalità. È in grado di diciamo quindi analizzare il livello di sicurezza dei quartieri della città di Trento e di prevedere soprattutto alcune tipologie di reato, quindi parliamo dei furti. È stato testato a Trento sui furti e ha dato degli ottimi risultati. Su reati diciamo che hanno degli schemi meno ricorrenti e stabili, stiamo ancora testandolo. Dottoressa Terenghi, adesso c'è la domanda chiave, anche qua le prego estrema sintesi perché siamo davvero in chiusura. La politica è responsabile dell'evoluzione anche delle città? Bisognerebbe pianificare, bisognerebbe costruire le città con la testa, gestire l'immigrazione, i flussi, la riallocazione delle persone, delle risorse con tanta intelligenza e visione e lungimiranza? Perché alcuni fattori, se mal gestiti, portano a questi casi viziosi che abbiamo raccontato oggi a Nessun Luogo. Come si riplasmano le città? Come si rende, come si ripensa un ambiente urbano che sia sicuro? Allora sì, bisogna saper pianificare e programmare, bisogna essere però anche molto informati, e qui mi ricollego velocissimamente Security, che è un progetto che ha poi l'obiettivo di fornire informazioni, dati alle istituzioni locali, alle forze di polizia, per poter poi capire dove sono le aree a rischio. Quindi è fondamentale avere i dati e sapere cosa accade nelle città, ma in maniera standardizzata, oggettiva, con una metodologia comunque replicabile. E da lì si parte e si programma, quindi sicuramente bisogna fare interventi integrati, non basta solo il controllo, ma bisogna fare, lavorare nei territori e lavorare anche soprattutto sulla marginalità, quindi sì, interventi di tipo sociale, sì, economico, eccetera. La famosa integrazione, se dovessimo usare uno slogan che mi sa che sia un po' svuotato ultimamente sulla bocca di tanti politici, anche italiani. Io ringrazio Fiamma Terenghi, ricercatrice, criminologa, lavora al gruppo iCrime all'Università di Trento. Grazie mille, dottoressa Terenghi, buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi, grazie a voi. Io ringrazio anche Antonio Talia, Eleonora Aragona, Silvia Malnati in redazione, Valeria Bernardi in regia, voi per essere stati all'ascolto. L'appuntamento è questa sera ore 21 per la replica e poi domani ore 16 l'ultima puntata di Nessun Luogo è Lontano. Io vi aspetto, intanto un saluto da Gianpaolo Musumeci.